Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Buongiorno a tutte e tutti, lunedì 17 maggio e bentornati su Liberi Dentro ed Uradio, il nostro programma talk che parla tra il carcere e la città. In questo caso noi trasmettiamo da Bologna, ma ci rivolgiamo all'intera regione Emilia-Romagna attraverso l'Epida TV, Radio Città Fujiko e Teletricolore. Buongiorno alla mia collega Antonella Cortese. Buongiorno Caterina e buongiorno a tutti e a tutti. Antonella, come tu sai, io sono volontaria per il carcere, della DOT di Bologna, anche Ignazio De Francesco, e c'è una bella cosa che volevo raccontarvi oggi: i volontari fuori dal carcere, situazione in peggioramento. Bella perché sono le testimonianze dei volontari, brutta perché purtroppo è la situazione pandemica che stiamo vivendo. L'articolo a firma di Ilaria Sesana su Avvenire. Perché, date le poche visite consentite in cella a motivo della pandemia, è scattato l'allarme, per fortuna, da parte delle associazioni di volontariato. A parlare è Teresa Michiara, una veterana ormai del Sesta Opera di Milano. Pensate che è da 27 anni che presta volontariato in carcere e dice: tutto è più lento, più difficile rispetto a prima, racconta. La condizione dei detenuti è peggiorata, si sentono abbandonati e questo alimenta la depressione. Perché prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, pensate voi che Sesta Opera, questa associazione di volontariato, coinvolgeva tantissime persone, una cinquantina di volontari al carcere di San Vittore, 45 a Bollate, una trentina nella casa di reclusione di Opera, e durante i mesi di chiusura totale invece questo numero si è drasticamente ridotto, tant'è vero che al carcere di San Vittore solo una persona tra i volontari addetti al vestiario. Caterina, senti, ma che cosa è successo dopo il maggio del 2020? I volontari sono riusciti di nuovo a rientrare un po' con l'allentamento dell'allarme della pandemia, oppure la situazione è rimasta così? Eh sì, Antonella, i volontari effettivamente nell'estate scorsa del 2020 hanno ricominciato ad affacciarsi nei corridoi e nelle rotonde degli istituti, ma con numeri comunque decisamente inferiori rispetto a prima. Oggi riescono a far entrare 7-8 persone a San Vittore, una decina a Bollate e meno di 10 a Opera. Sono numeri stravolgenti se pensiamo ai numeri che entravano prima. Tutte le attività di gruppo naturalmente sono ferme, non ci sono più gruppi di lettura o di spiritualità, ma i bisogni dei detenuti, quelli sì che sono aumentati e sono tanti, dovuti alla crisi economica certamente, ma anche alla crisi degli affetti e dei rapporti. Eh sì, il volontariato è veramente una cosa fondamentale. Ti volevo chiedere se dal punto di vista nazionale la situazione del volontariato in carcere è più o meno simile, come funziona? È difficile rispondere a questa domanda perché da Roma a Milano, da Bologna a Palermo, non sono pochi, anzi sono tanti volontari che entravano nelle carceri per portare conforto, aiuto materiale, anche supporto ai detenuti, però è difficile risponderti per dare un quadro generale perché tutto dipende dalla realtà in ogni istituto, dal contagio. Come sapete, quando c'è una persona contagiata tutto viene chiuso e tutto si ferma per la protezione della salute delle persone stesse, e quindi dipende molto dalle scelte anche dei direttori dei singoli istituti. Pensate che mi piace che cosa ha detto Ornella Favero, che è la direttrice della rivista Ristretti Orizzonti e anche presidentessa della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, che dice: il volontariato è ancora fuori da tante realtà, tuttora purtroppo con la pandemia, ma sospendere all'infinito le attività dei volontari rende le carceri un deserto. Quindi senza le attività organizzate dai volontari, le giornate in cella, come ci confermano anche tante lettere che riceviamo dalle persone detenute del carcere Dozza di Bologna, sono molto più lunghe, difficili da trascorrere, e ai detenuti mancano quei preziosi momenti di incontro, di supporto, di conforto, e oltre alla possibilità naturalmente di ricevere aiuto materiale. E anche Francesco Moggi, volontario e presidente del VIC Volontari Italiani e Carcere, dice: un carcere senza volontari è un carcere più carcere. perché visti i limiti all'ingresso nel corso dell'ultimo anno, però la sua associazione Vic Volontari ha cercato almeno però di implementare quelle attività rieducative e di lavoro per i detenuti in regime di semilibertà e i detenuti che non avendo un domicilio non possono accedere alle misure alternative, almeno quello. Caterina, se questo è il quadro, quali sono se ci sono preoccupazioni per il futuro? Le preoccupazioni per il futuro le racconta molto bene Paola Cigarini, del referente del gruppo Carceri, Città di Modena. E lei dice che in futuro il volontariato in carcere dovrebbe essere molto più coinvolto, nella progettazione, ma questo presuppone un volontariato preparato, che rifletta sul suo operato per non fermarsi, e rimanere sul pezzo su quelle che sono le esigenze quotidiane del carcere e dei detenuti stessi. Bene, e senti, che cosa ci fai ascoltare questa settimana? Questa settimana siamo in compagnia di Bob Marley e io lancio subito Redemption Song, un brano del 1980 che parla di redenzione, di libertà dalla schiavitù, appunto, invitando tutti a liberarsi da quei fardelli e dagli schemi mentali che ci attanagliano. Ascoltiamola. Minutes of a day to cry from the bottomless pit, but my aim was made strong by the aid of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you hear the same? Eccoci dopo la pausa musicale con Bob Marley, siete sempre su Liberi Dentro e siamo con Antonella Cortese per la nostra finestra sul mondo per parlare di una cantante maliana, Fatoumata, vero? Sì, Fatoumata Diawara è una cantante del Mali ed è una delle rappresentanti più vitali della musica contemporanea africana, che esprime veramente delle eccellenze. Fatoumata è considerata la nuova portavoce femminile della giovane Africa e consapevole delle proprie radici, che sono presenti nella sua musica, ma anche con una visione fiduciosa un po' al futuro e a un linguaggio universale che è un po' il linguaggio della musica. È originaria del Mali, come giustamente detto tu, Caterina, e vive tra Parigi, il lago di Como e Bamako. E ovviamente vi chiedete perché il lago di Como, visto che è proprio una specifica zona d'Italia, è perché è sposata con un italiano. E, tra l'altro, Fatoumata Diawara ha un pregio che qualcuno considera anche un difetto, purtroppo, non riesce a vedere differenze nel colore della pelle. Infatti, lei stessa dice che le uniche differenze importanti per lei sono nel grado di sensibilità. E infatti, tra lei e suo marito, come afferma, non c'è nessuna differenza. Vedono il mondo nello stesso modo. C'è da dire che questa bravissima cantante è anche una bravissima attrice. L'abbiamo vista in un film che si chiama In viaggio con Yao, in cui ha interpretato una ragazza del Mali che accompagna uno scrittore in viaggio in Africa. E lo scrittore era interpretato dall'attore Omar Sy. E Omar Sy è lo stesso attore che ha interpretato Quasi Amici, questo film successo francese uscito qualche anno fa, giusto? Giusto, giusto Caterina. In più ha anche imbroccato una serie che ha avuto molto successo che si chiama Lupin, e quindi insomma un attore molto affermato. Però vorrei tornare a Diawara. E la prima canzone dell'album Femme Fo, che si può tradurre come qualcosa da dire, è stata prodotta prima di tutto dalla stessa Diawara e da Matthieu Chédid e è registrato fra Mali, Burkina Faso, Barcellona e Parigi. Il pezzo che tra l'altro vi faremo ascoltare tra un po', si chiama Anterini, tradotto è Il mio amore, il mio confidente. E parla del fenomeno dell'emigrazione, delle separazioni e della sofferenza di due innamorati che si devono allontanare. Però vi voglio leggere quello che ha scritto la cantante e autrice del testo. Apprestandomi a scrivere, mi chiedevo come affrontare l'argomento in un modo positivo, perché i migranti mi rappresentano, sono come me. Volevo far capire alla gente che non veniamo da un altro pianeta. Veniamo da famiglie normali, in alcuni casi anche da famiglie importanti. Abbiamo tutti una storia personale. E poi beviamo caffè al mattino, facciamo colazione come tutti gli altri. I migranti sono insomma persone normali. Non dovrebbero perdere la loro dignità o essere considerati indesiderabili solo perché sono dei migranti. Qui li vedono come poveri, strani, hanno paura che gli rubino qualcosa o che li uccidano. Nessuno pensa che sono persone come gli altri, esseri umani. Cambia l'aspetto, la lingua, ma la maggior parte di loro sono andati a scuola, sono educati, appaiono solo diversi nell'aspetto. Il nostro dovere come artisti è di dar loro una voce, restituire loro una dignità. E su questo siamo pienamente d'accordo. È da un album che ha molto da raccontare e lo fa con uno stile molto esuberante, pieno di contaminazioni, pop, funky, leggerezze tropicali. Si parla di afropop praticamente, ed è veramente una musica molto molto energetica. È bellissimo quello che hai letto e mi fa pensare che comunque fra i temi affrontati da Fatoumata ci sono temi molto delicati, quelli della denuncia sociale, giusto? Sì, esattamente, perché abbiamo detto che è cantante, autrice, chitarrista, attrice, ma è anche una persona impegnata socialmente ed è una persona che non accetta facilmente compromessi ideologici, né ricorre a narrazioni in terza persona, cioè una persona che si assume la responsabilità di quello che dice. E ha affrontato anche argomenti spinosi, come i matrimoni combinati o le mutilazioni genitali, quest'ultime cantate nell'album di debutto che si chiama Fatou e che è stato tenuto in molta considerazione dalla stampa internazionale. E diciamo che emerge nel suo modo di fare musica il coraggio di una guerriera e proprio attraversare anche la vita come grande avventura, come grande esperienza. Fatoumata infatti ha ricevuto anche due nomination, uno ai Grammy Awards del 2019 come miglior album world music con Femme Fo, appunto l'album di cui parliamo oggi, del quale ascolteremo il brano, e come miglior album dance, grazie anche alla sua collaborazione con Disco Closure. E cosa ci fai ascoltare quindi di Fatumata? Vi faccio ascoltare Interini. Thank you. Bentornati su Liberi Dentro, abbiamo oggi il piacere di avere su queste onde radio TV per questa rubrica in collaborazione con ASP Bologna la voce e il volto del dottor Roberto Di Caterino, da circa 13 anni comandante di polizia penitenziaria alla casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Buongiorno e benvenuto, grazie. Buongiorno, grazie a voi per l'invito, una cosa interessante, spero insomma di essere all'altezza di suscitare anche qualche curiosità e dare qualche spunto in questa trasmissione. Ecco, quindi parlando di regole, la Costituzione all'articolo 27 sottolinea il fatto che la pena mira alla rieducazione delle persone che la subiscono. E in questo senso, che ruolo hanno gli agenti di polizia penitenziaria? Allora, secondo me hanno un ruolo fondamentale. La nostra Costituzione è molto ambiziosa, faccio questa premessa, e è giusto così, è il bello della nostra Costituzione. E su di noi ricade ovviamente una bella responsabilità, perché riuscire a trasmettere quel senso d'umanità che richiede la Costituzione, non è semplice. Però il ruolo della polizia penitenziaria è fondamentale, perché noi dobbiamo cercare di guardare il nostro mondo con degli occhi, diciamo, meno stereotipati. E il ruolo della polizia penitenziaria non è la semplice agente che lì guarda, osserva, interviene, no, partecipa, cioè cerca di metterci nel suo, e questo, che poi è un suo molto labile, perché poi dipende dalla particolarità di ciascuno di noi, ma è quello che fa la conoscenza del detenuto. Ecco, io riporto moltissimo alla conoscenza del detenuto, riporto la sicurezza, riporto il trattamento, è un mondo, e la conoscenza porta sicurezza, ma sicurezza interna all'istituto, ma sicurezza anche esterna all'istituto, non solo per le persone che possono, una volta uscite, insomma, evitare di ripetere i propri sbagli, ma anche proprio sicurezza mentre sono detenuti, cioè evitare che il carcere sia una fucina di nuovi talenti del loro ambito, diciamo così, per usare un'espressione colloquiale. E cercare di appunto riuscire a trasmettere questo senso di sicurezza. Se noi riusciamo a fare questo, forse il compito che e la responsabilità che pone sulle nostre spalle la Costituzione è molto più semplice e molto più alla nostra portata, insomma. Thank you. Comandante, volevamo fare una piccola riflessione con lei. Allora, diciamo, negli ultimi 30 anni la società italiana è cambiata moltissimo, no? Siamo passati da un paese, una nazione che era quasi prevalentemente abitata da italiani a una nazione sempre più globalizzata, no? Con persone che arrivano da ovunque, tante lingue, background diversi, culture diverse. Noi le domandiamo, questo secondo lei è ricaduto anche sulla popolazione, diciamo, carceraria? Ha portato a un cambiamento? E quali sono state le sfide per il corpo di polizia penitenziaria in questo senso? Allora, sicuramente questo che stai dicendo è un dato di fatto. Il carcere, adesso dirò una cosa che a volte stupisce i miei interlocutori quando magari faccio degli interventi oppure viene qualcuno a visitare il carcere. Il carcere è uno spaccato, addirittura premonitore della società che avremo domani. Perché essendo cioè raccogliendo quella che è in un certo senso l'emarginazione, inevitabilmente il fenomeno, determinati fenomeni che esploderanno poi nella società, nelle varie città, in carcere abbiamo la fortuna di individuarli prima, quindi con un certo anticipo. È successo così per la tossicodipendenza, è successo così anche per questa nostra società adesso più globalizzata, dove soprattutto il nord Italia, insomma, già da anni, già almeno da quasi 30 anni appunto, la popolazione detenuta per larga parte è di nazionalità straniera. Quindi è un po' uno specchio della società, ma che anticipa i tempi, proprio per questo effetto, diciamo, di raccogliere quella che è un po' l'emarginazione sociale, insomma. Quindi la sfida in questo cambiamento è veramente importante. È importante appunto da tanti punti di vista, ma come qui adesso ci potremmo addentrare in un discorso un pochino più complesso, però ad esempio anche sulla questione della radicalizzazione, del reclutamento di persone da parte di organizzazioni criminali. Ecco, la polizia penitenziaria ha un grande ruolo e questo si va a collegare con quello che dicevo prima, cioè conoscere il detenuto, conoscere il proprio lavoro, il proprio ambiente, eccetera, ci permette anche di provare a leggere con anticipo alcune situazioni che poi si verificheranno nel tempo, insomma. Quindi credetemi, è un lavoro molto difficile, molto delicato, poco riconosciuto, ma potenzialmente molto molto importante. Quindi prima o poi riusciremo anche noi a dargli il giusto il giusto riconoscimento dell'impegno che i ragazzi ci mettono, perché poi sostanzialmente il personale è una, e questo risponde un po' anche a una domanda precedente, le qualità richieste, cioè è sostanzialmente una prima linea, una rappresentanza dello Stato. Thank you. nostro intervento termina qui. Ci rivediamo presto con nuovi approfondimenti da chi vive per chi vive il carcere. Non dimenticatevi di scrivere a Liberi Dentro Eduradio sui social, Instagram e Facebook, se avete domande o richieste per le prossime puntate. Ciao a tutti. Ben ritrovati, vi ricordo alle ore 17 su Teletricolore, mentre tra poco su Lepida TV alle ore 13.30, la rubrica Oggi parliamo di, a cura di AVOC e Centro Internazionale del Libro Parlato, Voci da Dentro. Scriveteci, redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna. Noi ci rivediamo domani, sempre qui su Liberi Dentro. Buona giornata a tutti e tutte. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.